Arrivando in Afghanistan sono arrivata chiaramente a Kabul, e Kabul è una realtà fondamentalmente diversa dalla zona rurale e montuosa dell'Afghanistan centrale che io ho avuto modo di visitare durante questo viaggio. A Kabul ci sono soldi e questo si vede, mentre nelle zone rurali abitate da questa minoranza etnica che sono gli Hazara, i soldi non ci sono e ci sono anche pochi grandi progetti internazionali a parte dei progetti di ricostruzione di strade. Cioè, l'intera zona che io ho visitato è disseminata di manifesti che chiamano la popolazione, specialmente le donne, al voto, e non con scritte ma anche con dei disegni. C'è il disegno di una bilancia con su un uomo su un lato e una donna sull'altro e pesano uguale, no? E hanno entrambi la scheda per il voto in mano. E poi, vabbè, anche i manifesti elettorali dei candidati, questa zona, cioè poi il voto è anche un'espressione etnica, quindi in questa zona poi c'erano tanti cartelli elettorali di questo candidato di questa etnia. Però la gente non è che sia proprio illusa, sanno, cioè anche persone che tu non lo sospetti, loro ti dicono, ma vediamo cosa esce, tanto si sa che vince Karzai, però intanto andiamo a votare. La gente parla, la gente adesso la gente percepisce la pace, adesso a prescindere da quello che noi dall'esterno possiamo percepire, loro percepiscono la pace. E diciamo che all'inizio, dopo la caduta del regime dei Taliban, erano molto entusiasti, un entusiasmo poco naturale, cioè un po' esagerato, che poi poco a poco ha lasciato spazio al realismo. In questo momento la gente sa che la strada sarà lunga, ma che comunque in questo momento c'è la pace. Poi sanno che vabbè, queste elezioni magari non saranno così come uno se le sogna. Noi in questa zona finanziamo parecchie scuole e parecchi ambulatori. Io sono andata a visitare tutti i nostri progetti nella zona e sono arrivata in un posto sperdutissimo, a me sembrava la fine del mondo, che si chiama Lal, dove noi abbiamo un ambulatorio dove vengono trattati una cinquantina di pazienti al giorno. Vabbè, a prescindere dal fatto che tutto il personale, la gente che era lì ad aspettare di essere visitato, mi ha ringraziato come se fossi, non so, una santa, che mi ha messo parecchio in imbarazzo, è arrivata una delegazione di una valle vicina che ha chiesto se potevamo aprire un ambulatorio anche da loro. La cosa mi ha imbarazzato ancora di più perché, vabbè, loro hanno delle enormi speranze nel nostro aiuto e per me questi sarebbero solo altri soldi che io devo trovare, mentre per loro questa sarebbe una differenza fondamentale per la loro vita, di avere un ambulatorio in tutta la valle. Questa accoglienza, chiamiamola pure entusiasta, ha chiaramente anche a che fare con la mia referente in Afghanistan, perché cioè non sono io che implemento i progetti, ma è una dottoressa afghana, lei stessa di questa etnia, che è attualmente presidente della commissione indipendente per i diritti umani in Afghanistan. E questa persona ha da circa 20 anni messo in piedi questa rete di solidarietà in questa zona. La quasi totalità delle strutture sono gestite da lei, con l'aiuto appunto di associazioni come la mia, piccole associazioni all'estero che finanziano i progetti. E se vuoi fare qualcosa al di fuori del ruolo tradizionale di donna in Afghanistan, hai bisogno di molta forza e molto coraggio. Ma queste donne non mancano, cioè ce ne sono un tot di donne. Per esempio c'è una maestra che ha aperto una scuola in una zona fondamentalista, dovendo lottare anche contro la propria famiglia. E questa è una donna normale, cioè non una super donna, però una donna con molto coraggio e molta forza. Così a prima vista il paese sembra un paese di uomini, perché tu viaggi in un paese di uomini. Le donne sono, cioè, in una realtà a parte le donne che lavorano nei campi che tu vedi in questa zona, ma se tu vieni ricevuto in una casa privata, vieni messo in questa stanza di accoglienza degli ospiti che è all'esterno del cortile interno della casa. E quindi tu le donne non le vedi, le devi andare a cercare, cioè io posso andarle a cercare perché sono una donna. Cioè io come donna occidentale ero vestita come le loro donne per potermi muovere meglio, ma cioè comunque ero oltre il bene e il male. Cioè io bevevo il tè con gli uomini, parlavo con gli uomini, poi beh, un certo momento poi io mi muovevo fuori da questa, diciamo, da questa stanza degli uomini e andavo a cercare le donne nei cortili delle case. Questa zona da me visitata, che è una zona grande ed è una zona appunto di una minoranza etnica che è tranquilla, cioè non è una zona a rischio di sicurezza, cioè in questa zona qui non ho avuto problemi di sicurezza, non ho avuto problemi di ostilità. Cioè questo non si può dire per tutto il paese,